Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentornati a Salvadanaio, ci siamo anche oggi, siamo in diretta nonostante la festa. D'altronde, come spesso ci capita di raccontare, le borse sono aperte, per cui noi monitoriamo l'andamento di questi mercati finanziari, che continua ad essere un andamento turbolento. Anche questa mattina le sorprese in Europa non sono mancate, ma soprattutto oggi è il 2 giugno, festa nazionale, molti sono a casa. Abbiamo voluto prenderci una pausa dalla manovra finanziaria che stiamo affrontando da lunedì scorso e con tutte le sue novità. Abbiamo scelto di parlare di un altro tema, sugli aspetti della manovra torneremo naturalmente a partire da domani. Allora, qual è il tema che abbiamo scelto per questa puntata di Salvadanaio? Vi ricorderete senz'altro che in passato abbiamo parlato più volte di social lending, cioè di questa è una realtà molto articolata, ma soprattutto dall'aspetto che riguarda i prestiti fra privati. Una realtà che in Italia si è fatta conoscere grazie all'attività di due piattaforme di intermediazione di prestiti tra privati, Zopa e Buber, la cui attività però è stata interrotta dalla scorsa estate per decisione della Banca d'Italia. Eppure era un'attività che aveva riscosso un grande consenso da parte dei fruitori di questi servizi. Allora, oggi noi ritorneremo su quei casi per capire cosa è successo, poi che fine hanno fatto queste due aziende, ma anche per soddisfare un'altra curiosità che ci vogliamo togliere, perché bloccate queste piattaforme abbiamo scoperto che in realtà c'è un'altra esperienza che sta operando senza alcun problema, è quella di prestiamoci.it. I criteri di operatività sono praticamente gli stessi, almeno da quello che abbiamo potuto capire noi fino a questo momento, ma siccome si continua a lavorare regolarmente. Mariano Carozzi, ideatore, fondatore e amministratore delegato di Prestiamoci, voi continuate tranquillamente ad operare, per cui nessuna scure da parte di Banca d'Italia si è abbattuta sul vostro lavoro? No, nessuna scure, anche se la parola tranquillamente è un po' esagerata per una startup nuova che si muove su internet in un mercato che in Italia è nuovissimo. Noi abbiamo delle differenze rispetto a Zopa e a Buber, siamo partiti con un approccio diverso che riguarda sia il tema tecnologico che il tema legale. Non ci sveli niente allora, sveleremo tutto questo mistero relativamente nel corso della trasmissione, poi ci aiuterà anche ad orientarci nel mondo complessivo anche del cosiddetto microcredito in Italia, perché anche poi questa esperienza attiene anche a questo fenomeno che sta muovendo ancora purtroppo forse i suoi primi passi in Italia, perché ne parliamo tanto ma ancora grandi esperienze insomma consolidate forse non ce ne sono. Il collega Pier Emilio Gatto, che disturbiamo spesso per questi argomenti, e già con lui la scorsa estate avevamo affrontato il tema della disavventura che ancora è tale per infatti Zopa e poi Buber, e quindi grazie per essere tornato con grazie noi, rifaremo con te un po' il punto della situazione. Allora, anche se è festa, non pensiate di non poterci chiamare all'800 24 0024, anzi ci interessa particolarmente conoscere la vostra opinione su queste realtà. Magari siete stati anche dei clienti di queste due piattaforme di cui abbiamo parlato, clienti o fruitori, prestatori di denaro, e so che quando peraltro era stata interrotta l'operatività di Zopa, in molti ci avevano chiamato sollevando le perplessità anche dell'intervento della Banca d'Italia, che ovviamente noi stamattina non vogliamo mettere in discussione la sua il ruolo insomma di questa istituzione. Il tema è che però molti avevano detto, ecco sì, una volta tanto che era arrivata una bella realtà che faceva concorrenza alle banche con dei tassi anche sui prestiti molto vantaggiosi e con delle condizioni anche molto trasparenti, è chiaro che queste realtà sono state bloccate. E allora intervenite pure all'800 24 0024, oppure scriveteci al 349 238 6666. Andiamo a vedere la borsa prima di partire con la nostra chiacchierata con i nostri ospiti. Abbiamo un quadro di borsa negativo anche stamattina. La partenza era stata negativa. Poi c'è stato un peggioramento abbastanza sensibile per gli indici del vecchio continente, che sono arrivati a perdere più di un punto e mezzo. Adesso si risale di nuovo, insomma la volatilità non fa mancare la sua sorpresa, la sua presenza nelle contrattazioni delle ultime settimane. Adesso Parigi scende di un punto, Francoforte meno 0,5, Londra meno 0,96, Milano meno 0,78. Stamattina soffrono ancora le banche e soffrono i titoli legati al settore petrolifero, e questo per tutto il disastro che sta determinando purtroppo la falla nelle acque del Golfo del Messico, e quindi la situazione problematica che sta vivendo British Petroleum. Ieri il titolo ha perso il 14%, a Londra anche oggi è in forte difficoltà, non è però tra i peggiori titoli, perde circa 2 punti, ma in ogni caso, insomma, finché questa situazione non si risolve, probabilmente tutte le ripercussioni ci saranno anche sulle azioni del gruppo. Tenaris, peggior titolo di Milano, -2,40, Saipem -1,90, infatti i petroliferi, Eni -1,70, nei bancari Azimut -1,63, Buzzi Unice -1,53, A2A -1,25, e dopo i pessimi dati sulle immatricolazioni in maggio, Fiat oggi subisce un ribasso dell'1,20%. Segno più su Campari, +3,47, STM +2, Pirelli +1,28, Parmalat +0,8%. Ieri l'euro sul dollaro ha riaggiornato i suoi minimi da 4 anni a questa parte, oggi anche l'euro riesce un pochino a risalire la china, ritorna sopra la soglia di 1,22, adesso il cross, il cambio, è a 1,22,60. Questi temi di borsa. Noi la borsa la lasciamo e oggi parliamo di microcredito, di social lending, di prestiti fra privati. Vi facciamo conoscere questa nuova realtà che è nata sul mercato, che si chiama prestiamoci.it. Da 500 fino a 25.000 euro di finanziamento. Il tutto attraverso internet. A tassi vantaggiosi, grazie all'assenza di costi di intermediazione. Dare seguito al fenomeno del social lending dopo l'inaspettato declino di iniziative come Zopa e Boober non è impresa semplice. La cancellazione delle due società da parte della Banca d'Italia l'anno scorso aveva fatto pensare alla definitiva messa al bando di questa nuova forma di finanziamento senza banche. Iniziative che, complici gli scossoni di borsa e la volatilità dei mercati, avevano attirato via via sempre più utenti. Tuttavia, c'è chi non si è fatto spaventare dallo stop di Via Nazionale e, al contrario, approfittando proprio dell'assenza di concorrenti diretti, si è lanciato nuovamente nel mondo del social lending, come prestiamoci.it, un'iniziativa che rappresenta un esatto compromesso tra gestione familiare e competenze professionali. Il meccanismo più o meno è sempre lo stesso. Si tratta di una sorta di comunità virtuale che agisce, in pratica, da semplice facilitatore dello scambio. Crea il mercato e mette a disposizione una piattaforma sulla quale si possono incontrare domanda e offerta. Qual è il vantaggio? Chi presta denaro e chi lo riceve percepisce mediamente una quota di interessi più favorevole rispetto a quella proposta dal mercato bancario attuale. I prestiti fra privati costano infatti meno del credito al consumo. 800 24 00 24, il numero verde che anche oggi, anche se è festa, lo ribadisco, siamo in diretta, quindi potete tranquillamente chiamarci, interagire con noi al numero verde, oppure scriveteci al 349 238 6666. Allora, prima di entrare nel merito del dettaglio dell'attività di prestiamoci.it, prestiamoci, anzi, perché continuo a dire .it, Mariano Camozzi, ma Carozzi, sì, ma in realtà il sito internet è .it, poi certo. La società si chiama Prestiamoci, benissimo, poi lo preciseremo di nuovo. Però volevo tornare a Pier Emilio Gadda, perché per tutti i curiosi che hanno perso le tracce di Zopa e Boober, insomma, vogliamo riepilogare un po' quello che era successo a queste due aziende. Lo dicevi tu prima, è successo che da circa un anno, era il mese di luglio, Zopa e Boober sostanzialmente sono in stand-by, sono state escluse dal registro degli intermediari finanziari su iniziativa della Banca d'Italia e quindi hanno sospeso l'attività, o meglio, hanno sospeso l'erogazione di nuovi finanziamenti, perché tutta la gestione di finanziamenti in essere, quindi incasso rate e recupero crediti, è rimasta pienamente operativa, naturalmente. Forse vale la pena ricordare anche le ragioni per le quali è arrivato lo stop da Banca d'Italia. Infatti. Sono ragioni molto diverse, perché mentre Zopa è stata sanzionata sostanzialmente perché le somme messe a prestito dai prestatori confluivano in un unico conto riconducibile a Zopa prima di essere diciamo destinate, dirottate ai conti correnti dei destinatari, e questo secondo Banca Italia prestiti, esatto, avrebbe configurato una forma abusiva di raccolta del risparmio, attività per la quale Zopa non aveva evidentemente le autorizzazioni. Nel caso di Centax invece le contestazioni mosse Centax, quindi che proprietari esatto del marchio Boober, le contestazioni non riguardano l'attività di social lending e non hanno riguardato quell'attività, ma hanno riguardato l'attività di rilascio garanzie per i pagamenti con assegni che poi rappresentava il core business dell'azienda. Quindi nessun problema per il social lending, in realtà però con la chiusura della società anche questa attività si è è interrotta e dal mese di agosto non è stato più possibile erogare nuovi finanziamenti. Inizialmente Buber aveva dichiarato che avrebbe sospeso solo la possibilità di nuovi finanziamenti, quindi diciamo di nuove iscrizioni alla community. In realtà è tutto fermo praticamente dal mese di agosto. Ecco, tra l'altro vogliamo anche un po', Pieremino, se mi aiuti, riepilogare qual era il modello e l'attività di queste due piattaforme, perché continuiamo a parlare appunto di peer-to-peer, utilizziamo terminologia in inglese, e di prestiti fra privati, ma ecco esattamente come... Erano due modelli in realtà molto diversi. Nel caso di Zopa, l'incontro fra domanda e offerta di denaro, quindi tra chi metteva a prestito una certa somma di denaro e chi invece aveva bisogno di un finanziamento, era completamente automatico. Quindi il software incrociava meccanicamente, automaticamente, domande e offerte con le stesse caratteristiche in termini di durata del finanziamento, in termini anche di rischiosità del finanziamento stesso. Quindi tutto avveniva davvero in modo automatico, e questo forse era anche il pregio del sistema, un sistema molto efficiente che ha consentito anche di produrre numeri molto elevati rispetto all'altra realtà. Il caso di Buber invece era quasi più simile a un meccanismo di asta, ovvero il richiedente pubblicava una richiesta di finanziamento dopo ovviamente essere stata analizzata per quanto riguarda... Sì, esatto, poi il cosiddetto scoring c'è sia da parte del prestatore del denaro che del richiedente, magari poi su questi aspetti ci torniamo, era solo proprio per ricordare un po' la dinamica del funzionamento dell'erogazione. La richiesta di finanziamento, e poi i prestatori avevano la possibilità di decidere quali richieste finanziare. Quindi un meccanismo forse che impreziosiva la componente sociale, quindi di relazione e di interazione tra prestatori e richiedenti, tant'è vero che in molti casi avveniva una vera e propria contrattazione, negoziazione delle condizioni tra prestatori e richiedenti. Però un meccanismo diciamo leggermente più farraginoso, che quindi ha prodotto anche numeri decisamente inferiori. Beh, di fatto comunque con tutte queste differenze comunque insomma le autorità hanno deciso di bloccare, di sospendere l'attività di queste due piattaforme, che peraltro noi avevamo avuto Maurizio Selle, numero uno di Zopa, proprio qui ai nostri microfoni, ci aveva raccontato come stesse tentando di mettere in piedi tutte le iniziative poi per riportare sul mercato questa azienda, ancora non ci è riuscito, quindi evidentemente, poi dopo ne parleremo insomma, magari. Sì, certo, evidentemente insomma è comunque una questione complicata. In tutto questo però Mariano Carozzi, sì, prestiamoci, sta andando avanti. Voi peraltro siete nati quasi in concomitanza con loro, ma il vostro percorso è stato un po' più tranquillo. Noi siamo nati in concomitanza con loro, giusto per raccontare un numero che dà subito l'idea. Quando siamo nati, se uno scriveva prestiti tra persone su Google, venivano fuori 80 voci, noi eravamo la quarta. C'erano ovviamente Buber, c'era ovviamente Zopa, c'erano i primissimi articoli che parlavano di prestiti tra persone. Stiamo parlando ormai di qualche anno fa. Poi il percorso si è diversificato, nel senso che Buber e Zopa hanno molto accelerato sfruttando le esperienze straniere. Sono stati quasi un franchising, diciamo, nel senso che Zopa UK e Buber in Olanda erano due esperienze importanti, sicuramente molto più importante quella inglese, però hanno portato un'accelerazione, un modello e del software già fatto. È sicuramente efficiente, insomma. È sicuramente efficiente. Questo però ha portato due tipi di problemi. Un problema di tipo legale, un problema di tipo tecnologico. Noi abbiamo seguito una strada diversa, nel senso che l'abbiamo fatto in casa, seguendo con molta attenzione i temi legali e di compliance. Io nasco come legale, e quindi abbiamo cercato fin dall'inizio di avere una tecnologia che rispettasse i paletti che erano presenti nella normativa italiana, e siamo riusciti. Abbiamo avuto l'autorizzazione più o meno in coincidenza, ma è stata una casualità, con i momenti in cui sono fermati sia Zopa che Bovere, ma il processo autorizzativo è stato piuttosto lungo, per l'autorizzazione l'abbiamo chiesta parecchi mesi prima. No, stupisce un po' anche questa sua ricostruzione del percorso della costituzione della vostra azienda, della vostra attività, perché comunque anche gli imprenditori che sono a capo delle altre due esperienze non erano proprio i primi sprovveduti del mercato, e quindi insomma un po' abbiamo la sensazione che abbiano operato, non dico con leggerezza, però insomma ci stupisce un po' il fatto che lo prestiamoci, non per fare adesso i complimenti a chi è qua, perché io ho molta stima anche di Maurizio Sella che è stato qua, e mi sembra veramente una assolutamente brava, brava persona. Di fatto, però, insomma, l'operatività sembra essere partita con un po' più di leggerezza. Ci sembra strano che non tutti i criteri anche di richiesta delle autorizzazioni, piuttosto di funzionamento dei meccanismi, insomma, non siano stati ottemperati e rispettati fino in fondo. Detto questo, prestiamoci, va avanti. Allora, guardi, prima di farle raccontare, Carozzi, come funziona la vostra attività, mi faccio sostituire come sempre dai miei ascoltatori, dai nostri ascoltatori di Salvadanaio di Radio 24, che fanno sicuramente delle domande più belle e più intelligenti delle mie. Arcangelo dalla provincia di Caserta, cominciamo con lei, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo, sentivo il programma e sono stato molto perpreso di questo programma. E io volevo sapere più o meno come il funzionamento di questo, perché oggi purtroppo nel 2010, secondo la mia opinione, io sono una piccola impresa, con le banche è impossibile lavorare, perché le banche quando c'avevi i soldi ero arcangelo. Adesso che magari purtroppo la crisi si sta sentendo anche per noi, e certo, un po' meno garanzie, ecco, signor col cognome magari la chiamano. Arcangelo, io la ringrazio per questa domanda per molti aspetti, anche perché anche il ramo delle piccole e medie imprese è, come dire, servito e interessato all'attività di Prestiamoci, ma soprattutto solleva un aspetto, Arcangelo, molto interessante. Da Prestiamoci a Prestiamoci si rivolgono le persone con situazioni finanziarie problematiche, Carozzi, cioè chi per esempio non ottiene un prestito dalla banca vi utilizza come prestatore di ultima istanza, perché un po' qualche volta forse la percezione che passa è anche un po' questa. Allora, noi abbiamo due tipi di clienti, un cliente che presta e un cliente che chiede. In realtà, essendo partiti comunque da 4 mesi, a noi si rivolge esattamente il mondo del credito che si rivolge alle banche, seguendo la classificazione del rischio delle banche. Vengono persone ottime, vengono persone con difficoltà. Dovendo prestare i soldi non miei, ma di altri, ovviamente cerchiamo di prestarli a persone che hanno dei buoni profili. Non è detto che siano esattamente gli stessi profili che vengono finanziati in banca, perché abbiamo un meccanismo, si chiama credit scoring, i nomi inglesi sono quasi inevitabili. Una profilatura, chiamiamola così. Sì, che tiene conto di quello che fanno le banche, ma principalmente con l'obiettivo che non ti daremo i soldi se hai fatto qualcosa di male nel passato. Ci faccia qualche esempio e ci rifaccia quegli esempi di cui mi raccontava prima quando non andavamo ancora in onda. Allora, che sono molto, molto interessanti. Ci sono persone che hanno una storia creditizia buona, ci sono persone che hanno una storia creditizia cattiva e ci sono persone che non hanno una storia creditizia. Le persone come il signore che hanno una storia creditizia devono accoppiarsi a un profilo di rischio che viene accettato da chi gli presta i soldi. In questo momento i profili di rischio sul mercato vengono un po' sovrappesati, per cui ci sono persone che si lamentano di non ottenere credito. Il nostro cliente... Che si lamentano, che non ottengono che credito. Non ottengono credito. Ecco. Il nostro cliente... più facile da seguire invece la persona che non ha una storia di credito, perché questa persona non deve scegliere fra noi una banca, questa persona difficilmente potrebbe essere servita da una banca, per cui è lei stessa che ci dice datemeli quando volete, ma ditemi se me li date. Qui fa l'esempio del vostro cliente che doveva rifare il tetto della casa e non riusciva ad ottenere un finanziamento dalla banca, per quale motivo? Ma questo signore aveva una situazione di proprietà complessa di una casa, per cui la visione della casa come garanzia era pregiudicata. Noi non chiediamo garanzie, guardiamo il progetto, guardiamo la persona, quindi la visione della casa come garanzia non ci interessa. La casa è un po' sua, un po' di sua nonna, un po' di sua zia, un po' di suoi fratelli. Quindi una sorta di multiproprietà. Però per poter avere l'agevolazione per costruzione e ristruzione impatto energetico del 55%, basta viverci. Quindi lui ci vive, ci intende migliorare la sua casa, ci costruisce la sua famiglia, per noi va bene. Non ha mai chiesto un finanziamento e quindi non ha una storia creditizia. Quando l'ha chiesto non gliel'hanno dato ed è diventato nostro cliente. E insomma, quindi ecco quando questo sito, la vostra piattaforma, la vostra realtà risolve situazioni problematiche in questo senso. Ma se ovviamente una persona è stata respinta dalla banca 10 volte perché ha una storia creditizia negativa, perché in passato non è stato solvente con altri prestiti, piuttosto che ha avuto altri problemi, è chiaro che non si può rivolgere neanche a Prestiamoci. Un ascoltatore ironico scrive: Cesare, Deborah, quanto ci metteranno le banche a far chiudere anche questo? Carozzi, non si tocchi niente di inappropriato a Radio 24, però insomma, che cosa stanno facendo Buber e Zopa, Pier Emilio Gadda adesso per tornare sul mercato? Hanno intenzione di farlo? Perché comunque credo che anche per le figure imprenditoriali che ci stavano dietro sia stato anche un problema reputazionale di non poco conto. Assolutamente, assolutamente. L'obiettivo è quello di ricominciare ad operare quanto prima e io li ho sentiti in questi giorni. L'idea è quella di riniziare dall'autunno, dal mese di autunno, dall'autunno. Qual è il problema? Il problema è che nel frattempo, innanzitutto distinguiamo le due cose. Per quanto riguarda Zopa, l'idea è quella di chiedere l'iscrizione al nuovo albo degli istituti di pagamento, perché nel frattempo il 1 marzo 2010 è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sui sistemi di pagamento e che introduce questa nuova figura, nella cui fattispecie dovrebbe rientrare anche la nuova Zopa, chiamiamola così. Nel frattempo si sta procedendo anche con il trasferimento della piattaforma alla nuova società, perché ci saranno nuovi azionisti, ci sarà quindi un nuovo partner finanziario, e tutto questo ovviamente procede di pari passo con l'implementazione della piattaforma tecnologica, che deve chiaramente rispondere a quanto è stato richiesto dalla Banca d'Italia, ma l'obiettivo è chiaramente quello di non stravolgere completamente quello che era il modello e il meccanismo iniziale. Ecco, sinteticamente con Buber, perché poi dobbiamo andare in pausa invece. Con Buber il problema non era di natura prettamente legale, e anche loro credono che per 3-4 mesi dovrebbero essere in grado di ripartire. Benissimo, eccoci ritrovati a Salvadanaio. Allora, 24, il magazine delle Sole 24 Ore, lo aveva descritto così: 5 figli, padre dirigente di banca, madre casalinga. Un giorno lui lascia il posto fisso per dare vita ad una community di prestiti fondata su fiducia e reputazione personale. Si parla in realtà di questa famiglia: padre dirigente e lui, Mariano Carozzi, che a un certo punto lascia il lavoro in banca e fonda Prestiamoci. Ma come le è venuto in mente? Lo voglio raccontare perché c'è anche un bel esempio di condivisione familiare di questa esperienza, e lei, come dire, ha avuto l'esempio a sua moglie. Sì, sicuramente il fatto di avere un incoraggiamento in casa è una cosa importante. E poi mia moglie, io sono un patito di internet, mia moglie è un patito di internet delle persone, e quindi la discussione è sempre stata su tanti temi. No, però non stanno sempre davanti al computer, perché hanno anche avuto il tempo di fare 5 figli, per cui... Certo. Una bella famiglia. Sicuramente, grazie. E da lì è nata la constatazione che le famiglie, soprattutto le famiglie numerose, hanno meno strumenti per affrontare le necessità che può avere e hanno un bilancio che assomiglia a una piccola azienda, a una microimpresa, perché comunque portare avanti 5 figli, la spesa, la macchina, le vacanze, tutti i temi che richiedono una cultura credenziale. Deve essere una macchinetta che funziona perfettamente. Sì. Oppure una macchinetta che costa moltissimo. Quindi, siccome la nostra scelta è stata quella di farla funzionare bene, abbiamo cominciato a pensare che alcune cose che facevamo potevano essere replicate. Nell'approccio alla spesa, nell'approccio al consumo o non al consumo, nelle riflessioni che facevamo, uno che si occupava di banca e di finanza con uno che faceva la spesa tutti i giorni. E abbiamo cominciato a parlarne, a scriverne, e l'inizio di Prestiamoci è un po' culturale, quindi un po' su quel taglio lì, e quindi anche un po' di culturale consulenziale. Poi però abbiamo visto che il tema principale era quello dei prestiti, di come accedere alla necessità finanziaria del momento di difficoltà, del momento di crisi, del momento di cambiamento di genere, del matrimonio, del momento di nascita dei figli. E la risposta a quelle soluzioni molto spesso era nella pratica l'aiuto delle persone. Per cui, quando ti nasce un figlio, hai bisogno di una babysitter, costa. Hai bisogno di un'amica? No, tu hai un'amica che fa la babysitter. E allora abbiamo detto: ma se la nascita, se l'aiuto fra le persone e la consulenza che si fanno le mamme online, mia moglie è una che si occupa molto di questo, e le mamme online fra di loro si scambiano tantissimi dati. Sì, sono una fonte, inesauribile di sapere, di conoscenza, di amicizia, di ricchezza. Essere sposato con una di quelle è una fortuna, ecco. E ho anche un sacco di amici con cui la riga, e insomma le ha proposto fondiamo Prestiamoci. Adesso poi andiamo nel concreto, perché sennò finiamo la trasmissione e non ci andiamo, anche all'esempio di come funzionano i vostri prestiti, perché in realtà, vista dal punto di vista anche del prestatore di denaro, è anche una forma di investimento. sentimento in qualche maniera, in un momento in cui i titoli di Stato rendono, se con Maurizio Sella di Zopa facevamo molti ragionamenti su questo, in un momento in cui niente rende niente praticamente, quasi che questa forma può costituire anche una sorta di investimento redditizio per qualcuno, cerchiamo anche di non vederla esattamente così, può anche essere vista così. Vi faccio però sentire intanto Giancarlo da Milano, che ci vuole proporre un altro tipo di esperienza di prestiti tra privati o tra piccole aziende sociali. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a voi, scusate il fiatore, ma sono in bicicletta. Ah, allora, ecco, ci sta ascoltando, ma che grande, non ci abbandona mai Giancarlo. Adesso mi fermo, scusate, ma sono 2 chilometri in salita e adesso... No, si fermi per carità. Allora, no, dunque, io volevo portare un po' l'esperienza di quello che è il microcredito solidale, in particolare quella che è l'esperienza delle MAG, che sono le mutue di autogestione. Mm-hmm. Sono 7 in tutta Italia e vengono incontro a piccoli prestiti, a quelli che vengono definiti non bancabili, cioè quelli che, per cui le banche non da, a cui le banche non danno soldi o perché non hanno garanzie sufficienti o non sono in grado di fornire tutto quello che è necessario. Lei come mai conosce bene questa realtà, Giancarlo? Beh, perché io sono all'interno di questa realtà attraverso dei gruppi di acquisto ed è comunque una realtà che gira intorno a quella che è l'economia solidale. Il vantaggio di questa operazione è che da un po' di tempo le MAG hanno aperto anche i finanziamenti a privati per problemi legati alla sanità, all'affitto, a un'emergenza di studio, e quindi è una forma di associarsi a queste MAG, è una forma di investimento sociale, è una sorta di investimento che magari non darà un rendimento altissimo, qualcuno lo dà, qualcun altro non lo dà, qualcuna di queste 7 MAG, ma è comunque un investimento sociale, perché attraverso questo si può finanziare cooperative, si possono finanziare anche privati che si trovano leggermente in difficoltà. Giancarlo, la ringrazio molto, magari in un'altra puntata cercheremo di approfondire meglio il discorso del lavoro delle MAG, per adesso lo accantoniamo. Vado alla domanda di Leonardo da Livorno, che ci permette di andare dritti invece al cuore, al nocciolo dell'operatività di Prestiamoci oggi. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti la mia domanda è molto semplice. Io mi sono interessato perché mia sorella ha fatto l'acquisto di deve fare l'acquisto di un'auto e deve prendere un finanziamento di 12.000 euro. Mi sono interessato per vedere che TAEG proponevano le varie banche e le varie finanziarie. Scrutando ho visto che la media era intorno all'8, addirittura 9,5% di una famosa banca. Interessandomi a questo ho trovato, se posso fare il nome, questa Agos Ducato, che è legata al Credito Agricole. Sì, ma è una delle più grandi realtà il credito al consumo in Italia, sì. Che è riuscita a fare a mia sorella un TAEG del 5,9%. Mia sorella ha 30 anni e ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle ferrovie dello Stato. Insomma, quindi avrebbe un credit scoring, diciamo, buono rispetto ottimo alla media. Vorrei sapere se Prestiamoci può essere più competitivo, parliamoci chiaro, Carozzi, qua la domanda mi sembra molto molto concreta. Allora, in realtà i due ascoltatori hanno detto la stessa cosa, parlando di cose completamente diverse. Allora, la risposta è no. Noi siamo all'Agos dalle nostre studi, è una delle finanziarie che fa tassi più interessanti, ce ne sono tante, ma Agos ha una particolare aggressività in questo momento sul mercato. Noi un finanziamento alla macchina a quel tasso lì non lo facciamo. In realtà però le persone non hanno solo bisogno di comprare la macchina. Quindi domandiamoci: perché Agos fa un finanziamento così a quel tasso così interessante per comprare la macchina? Perché comprare la macchina è un tipo di esperienza verso un tipo di persone che fanno un tipo di consumo. Come diceva la persona prima, però le persone hanno bisogno di altro, non solo di macchina, hanno bisogno di studiare, hanno bisogno di affittare casa e hanno bisogno di sanità. Se Agos o qualcun altro fa quello stesso tasso anche su quei 3 bisogni che diceva l'altra persona, complimenti. La nostra esperienza non è così. E infatti noi molto spesso ci troviamo a prestare soldi a gente che studia, che vorrebbe continuare a studiare, che ha bisogno per la sanità, che ha bisogno per l'affitto. Leonardo ci ha fatto proprio un esempio chiarissimo di credito finalizzato, Pier Emilio, per cui qua stiamo parlando veramente del business principale, tutto il credito al consumo. Qua la filosofia che ispira Prestiamoci è molto diversa, è radicalmente diversa, per cui è bene però insomma che si parli anche di questo, ma era assolutamente pertinente la domanda di Leonardo. Pier Emilio, peraltro l'esperienza invece delle MAG, quelle che ci raccontava Giancarlo da Milano, ci danno forse anche un po' l'opportunità di parlare di tutto il tema del microcredito in Italia, che non è esattamente quello della Grameen Bank di Muhammad Yunus, il fondatore di questo fenomeno mondiale molto interessante. E però, insomma, come sta muovendo i passi nel nostro paese questo fenomeno? Ma nel nostro paese si sta muovendo secondo direzioni diverse. Quindi anche in Italia il microcredito è una realtà davvero molto molto complessa. Il modello prevalente è quello che vede l'affiancamento di tre soggetti normalmente. Normalmente abbiamo un'associazione o una fondazione che ad esempio mette a disposizione un fondo di garanzia, il partner bancario che gestisce l'operatività, quindi semplicemente eroga il credito ma solo a fronte appunto della garanzia rappresentata dal fondo, e abbiamo delle associazioni di volontariato che si occupano di raccogliere le richieste, di fare una prima valutazione, un primo diciamo screening di quelle che possono essere i progetti finanziabili. Questo è un po' il modello prevalente. E poi ci sono anche realtà diverse, ci sono realtà come la società Per Micro, per esempio, di Torino, che in realtà opera in assenza di un fondo di garanzia, semplicemente utilizzando un modello che mi pare non molto diverso da quello di Prestiamoci, perché in quel caso si effettua un tipo di analisi del merito creditizio che prende in considerazione anche altri elementi rispetto a quelli normalmente presenti. Ha delle vedute un po' più ampie rispetto al database bancario, mettiamola un po' così. Assolutamente. E quindi, insomma, pian piano si fa strada, si fa largo, però molto, molto tranquillamente, diciamo così. Molto, molto tranquillamente. Certamente c'è un grosso margine di crescita. La fase attuale non è proprio adatta a spingere molto su questo tipo Esatto. Paradossalmente sarebbe la più adatta, data le persone in difficoltà, e invece, come al solito, proprio nei frangenti di bisogno il sistema non è mai pronto per far niente. Peccato. Però, insomma, questo magari, anche questa fase di difficoltà magari potrebbe costringere forse ad una seria riflessione su questo, su tutto questo di cui stiamo parlando questa mattina. Allora, dovete rimettervi le cuffie, stanno facendo un po' i discoli gli ospiti di Salvadanaio questa mattina, sto scherzando. Allora, Carozzi, ammettendo che nel mondo migliore possibile abbia subito sull'unghia 20.000 euro così da darle, arrivo da lei con fare anche un po' sbruffone, le dico: guardi un po', questi soldi da mettere a disposizione del suo fondo che poi eroga prestiti a persone che ne hanno inevitabilmente bisogno. Siete subito così contenti? Aprite la porta a tutti? Come funziona? No, innanzitutto non apriamo la porta a tutti, perché è una community, bisogna controllare chi entra, sia dalla community del lato dei richiedenti che del lato dei prestatori. È chiaro, del lato del prestatore è molto interessante. Il lato del prestatore è interessante perché bisogna sapere chi viene, perché io magari non ho piacere di stare in compagnia con qualcuno che non ha pagato le tasse. Quei 20.000 euro arrivano da chissà quale fonte di attività. Quindi facciamo tutti i controlli del caso, dall'antiriciclaggio alla situazione patrimoniale, a verificare situazioni macroscopiche, per cui è strano che una persona magari che ha dei debiti sanciti in centrale rischi faccia il prestatore. Ma non per scoraggiare, perché in realtà la persona normale tutte queste cose non le ha mai fatte, ha sempre pagato le tasse, ha sempre pagato i suoi debiti e si trova con una piccola somma, come dicevi giustamente te prima, magari più piccola di 20.000 euro, e dice: ma questo, una parte dei miei soldi possono andare in questa cosa che mi sembra proporre un tasso vantaggioso? Sì, ci fa molto piacere che arrivino. Devi entrare in un meccanismo in cui devi entrare nella community, devi andare su internet, su due cose semplici. Non è fare limite, trading, peraltro, non è divertente. Che oggi vi do 1.500 euro e fra due giorni li ritiro. Cioè, non è fare trading, anche se del trading ha un po' una componente del gioco, perché fare trading è un po' un gioco anche, è un mestiere faticoso, una miniera, gli scalper tutto il giorno a guardare un piccolo punto di percentuale o un centesimo di punto di percentuale. Noi alla persona che investe gli diciamo: fai questo percorso piccolino, praticamente apri un internet banking dedicato a Prestiamoci, troverai i tuoi soldi divisi in una trentina di quote, questa trentina di quote verrà separata in parecchi investimenti. Perché? Perché da un lato dobbiamo cercare di aiutarti a fare delle scelte in cose che ti piacciono, dall'altro dobbiamo cercare di aiutarti a non concentrarti troppo sul rischio su una cosa che ti piace. Che è proprio la regola aurea dell'investimento, peraltro, quella della diversificazione, non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere. Quindi ti obblighiamo a dividere in 30 quote, una parte di quelle quote puoi giocare tu, e quindi scegliere tu dove metterle, a condizione che già non le abbiamo messo noi in quel progetto, almeno una quota. una parte delle quote le garantiamo noi la distribuzione, in modo che essere sicuri che tu non segua troppo le tue inclinazioni, e poi ti trovi a finanziare tutte persone che volevano andare in vacanza in Grecia e non ci vanno. Ah, ho capito. Quindi insomma è molto trasparente anche da questo punto di vista il meccanismo. Invece quali sono, vabbè, un po' ci siamo anche andati prima sulle garanzie richieste a chi ha bisogno di richiedere un prestito, e peraltro andiamo un po' agli aspetti problematici. Se qualcuno scopre di non riuscire ad essere solvente sulla restituzione delle rate, Carozzi, come funziona con voi? Allora, è un'esperienza che per adesso non abbiamo ancora fatto, però il recupero del credito ovviamente è una cosa importante e deve venire con velocità. Quindi è molto differente, come anche nei confronti delle persone che ci presentano i progetti, se uno arriva e non ci dirà che non paga, o se uno arriva e ci dice prima della scadenza della rata non pagherò. Abbiamo una scaletta di interventi che tiene conto del fatto che comunque c'è un allineamento interessi. Se ti abbiamo selezionato bene, tu vuoi pagare, sei in difficoltà per pagare, noi, tutta la community, ha interesse a che tu sia nelle condizioni migliori per pagare. Se tu non ce lo dici e hai approfittato di una nicchia per riuscire a ottenere un finanziamento e non hai nessuna intenzione di pagare, allora interveniamo con velocità, subito, perché è inutile perdere tempo, e con i sistemi classici del recupero. Ma riuscite a individuarlo in via preventiva, il furbetto? Allora, non vi è mai capitato? Non ci è ancora mai capitato. Contiamo molto sulla community, nel senso che le persone, ci è già capitato di avere persone che ci chiedevano i finanziamenti e non ci contavano la verità. Noi chiediamo tante cose, raccontare una bugia è possibile, raccontare una bugia in mezzo a 59 verità è difficile, quindi vedere la coerenza è possibile. Se una persona ci dice una bugia nell'istruttoria, non entrerà. Se una persona non ci dice bugie nell'istruttoria, siamo convinti che non ce ne dirà in futuro, apprezzerà questo e capirà che se ha delle difficoltà a pagare, avvisateci, certo, avrà un trattamento molto migliore. Anche perché insomma sono situazioni che possono capitare, situazioni di emergenza nell'ambito familiare, incidenti con la macchina che te la fanno rompere prima del previsto. Ci sono tante piccole e grandi cose che possono far modificare le abitudini, le condizioni finanziarie delle famiglie, per cui è chiaro che dicendolo prima si guadagna. Scusa se ti interrompo, tieni presente che a differenza degli altri due operatori, noi abbiamo messo due frasi sulla nostra insegna. Una è aiutare gli altri ti aiuta, che è il nostro smotto, quindi aiutare gli altri. Certo, ma ti aiuta, quindi il tasso è interessante. Il nome della vostra società che certo, è Agata. Sì. L'altra cosa invece altrettanto importante è la percezione all'interno della community del valore delle cose che vengono fatte insieme. Quindi le persone, mentre che entrano nella community, accettano un modo diverso di rapportarsi nel lungo periodo, perché sono convinti che magari un domani saranno prestatori, perché non è vero nella nostra community che ci sono i ricchi che prestano i poveri. Nella nostra community ci sono persone in momenti diversi della vita, per cui è molto, uno studente che voglia fare un prestito su Prestiamo c'ha un grande vantaggio, perché sarà la sua unica fonte di reddito, sarà tassata pochissimo, e quindi il suo rendimento lordo è vicino al rendimento netto. Allora, tassazione, c'è una domanda di Riccardo da Brindisi. Riccardo, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, volevo sapere se per chi investe il denaro c'è poi la possibilità o comunque il dovere dal punto di vista fiscale di inserire quello che si è guadagnato con gli interessi in dichiarazione. Certo, Riccardo, guardi, insieme alla sua metto insieme anche la domanda di Mario da Milano, così ci avviamo verso la conclusione della trasmissione di oggi con due belle domande. Mario insomma ci fa una tirata d'orecchie e dice: non siete stati molto chiari su questi aspetti. Mario, buongiorno. Buongiorno, ecco appunto, pensavo comunque che voi l'avreste detto, volevo sapere qual è il tasso di interesse. Certo, giustamente. Perché l'hanno detto 5-9% quelle della macchina, loro ancora no, e sarebbe interessante. Esatto. Grazie molte. Allora, aspetto fiscale di chi presta soprattutto, e quindi guadagna qualcosa rispetto a questa... Siccome abbiamo due clienti, uno che presta e uno che richiede, abbiamo dovuto inventarci qualcosa e l'abbiamo chiamato tasso d'equilibrio. Il tasso d'equilibrio è il punto in cui fanno un affare tutte e due, anzi tutti e tre, perché un'altra delle caratteristiche differenti rispetto agli altri operatori è che noi partecipiamo a ogni finanziamento con un minimo e con un massimo, ma partecipiamo a ogni finanziamento, e questo aiuta anche a gestire gli eventuali casi problematici a cui accennavi prima te. Ma quindi, per esempio, una persona che decide di prestarvi in qualità di prestatore 5.000 euro a gennaio, alla fine dell'anno, teoricamente sulla base chiaramente poi della comunità che si forma, maturerà anche il proprio reddito. Certamente. Allora, la persona nella misura in cui avrà investito renderà un tasso che sarà il 7% meno la nostra commissione, che è lo 0,8 però sul totale della somma, quindi sui 3 anni. Quindi man mano che incassa paga il prestatore. Quindi il 7% meno la nostra commissione, che comunque è piccolina, meno le tasse, che ovviamente è un dovere pagare. Certo, infatti. E sono in funzione. Ci mancherebbe pure che noi pagassi, sennò subito fuori dalla comunità. Certamente. Diciamo che la tipicità nostra rispetto agli altri strumenti finanziari è che a oggi noi non siamo sottoposti d'imposta, quindi le tasse sul prestito da persone sono inglobate alla tua dichiarazione, che portano comunque un vantaggio per chi guadagna meno rispetto a chi ha grandi importi. E comunque, insomma, c'è un tema di... Stiamo quasi chiudendo, sì, no, stavo guardando intanto tasso medio sul prestito per accontentare anche Mario da Milano. Il tasso tradotto in TAEG fra intanto intorno, prestiti fra più lunghi di 3 anni non li fate, più per di ora 36 sono 36 mesi. Tra l'altro questo è anche una differenza rispetto agli altri modelli, perché in questo caso, lo dicevamo, il tasso è fissato al 7% e di qua non si muove. Negli altri sistemi invece il, diciamo, il tasso di interesse variava in funzione del profilo di rischio e delle caratteristiche del finanziamento, quindi dal 5,5% al 16% per intenderci. Questo diciamo ci dà dei pro e dei contro, che sono le due facce della stessa medaglia. Il pro è che è un sistema più semplice e forse impedisce di calibrare bene il costo del finanziamento e anche il rendimento in base a quelle che sono le rischiosità. Mariano Carozzi, tutte queste informazioni le troviamo in maniera molto chiara e semplice sul vostro sito, che ho citato mille volte all'inizio. Certo, le informazioni le trovi tutte sul nostro sito. Il perché del tasso unico è molto semplice: se è entrato nella community il bollino è blu, non è azzurro o blu scuro, quindi non ha senso il 5,75 o 6,27, 7,50. Vabbè, insomma, anche questo è una, come dire, una, la strada della trasparenza vi ha portato a questa scelta. Grazie molte per essere stato con noi, grazie anche per Pier Emilio Gadda, ti richiameremo più avanti quando magari Zopa e Buber, glielo auguriamo, torneranno a lavorare serenamente sul mercato. Noi intanto ritorniamo domani, buona giornata.